Siamo in collegamento con Luisa Morgantini, già vicepresidente del Parlamento europeo e fondatrice dell'associazione Assopace Palestina, per parlare di quello che sta succedendo in questi giorni tra Palestina e Israele, in particolare nella striscia di Gaza. Allora, la prima cosa sono le dimissioni che ha presentato questa mattina il ministro della difesa israeliano, condannando le politiche di Netanyahu, definendolo insomma quasi un moderato. Qual è la situazione in questo momento all'interno del governo israeliano? C'è ovviamente una lotta di potere fra i diversi partiti politici. Lieberman, questi 2 anni in realtà di ministro della difesa, non ha brillato molto, cioè non è assolutamente ben visto né dai militari né dagli altri, anche, ha delle posizioni estremisti assolutamente, del resto però è quello che rappresenta ormai una fetta grossa che è all'interno del governo di coalizione, cioè sempre di più i coloni, perché dobbiamo ricordare Lieberman è un colono che vive in una colonia tra Ebron e Betlemme, stanno giocando per le elezioni. In realtà ogni volta che c'è di mezzo Gaza e soprattutto adesso che si avvicinano le elezioni, Lieberman sta aizzando tutta la popolazione, i coloni soprattutto, la popolazione anche sta a Sderot perché vuole essere un primo, quindi Netanyahu in realtà vuole guadagnarsi relazioni e rapporti con altri. Per esempio, coinvolti in questa fase sono il Qatar, le Nazioni Unite con Mladenov, l'Egitto soprattutto, ma anche la Norvegia, che stanno negoziando e sono proprio oggi stanno in fase di negoziato. Quindi Netanyahu gioca questa carta perché sa che un'altra guerra non si regge. Netanyahu era molto felice per esempio degli aiuti del Qatar economici, perché in questo modo spera di tenere buoni i Gazawi, che in realtà sono indomabili, perché le manifestazioni che si fanno ogni venerdì sono assolutamente incredibili. Purtroppo nessuno da parte della stampa internazionale ne prende nota che più di 300 persone sono state uccise, più di 25.000 palestinesi sono feriti e molti di questi disabili per sempre. Non si parla. Questa ultima azione, tra l'altro, dove anche un soldato israeliano, un ufficiale, è stato ucciso, non c'è paragone con la quantità di morti in questi anni che si sono fatti a Gaza. Però è vero che la destra estremista israeliana dice: ma come? Permette di uccidere un soldato nostro? Però Netanyahu conviene in questo momento essere molto, un po' sottotono e cercare di tenere insieme, perché sta manifestando che in realtà poi la sicurezza in fondo resta in mano a lui. Però appunto i giochi sono tutti aperti, ma sono aperti anche per le prossime elezioni israeliane che avverranno tra non molto. Chi paga lo scotto comunque sono sempre i palestinesi che continuano ad essere sotto assedio e oppressi da una parte e dall'altra. E insomma, da queste elezioni, ma anche dal clima internazionale un po' che sta cambiando in qualche modo, quantomeno da alcune parti, da quelle forse più nazionaliste, in qualche modo c'è stata la questione con l'ambasciata degli Stati Uniti portata avanti da Trump per spostare l'ambasciata a Gerusalemme, adesso anche Bolsonaro dal Brasile appena eletto ha detto che vorrebbe fare una cosa simile. Che ruolo gioca anche quest'altro fronte internazionale, cioè quello che non sembra spingere per una risoluzione? Beh, gioca moltissimo, nel senso che Israele si sente completamente impunita, può andare avanti, probabilmente sta un po' più tranquilla adesso a Gaza, perché affrontare un'altra operazione come quella del 2014, dove sono state uccise 2.200 persone, è dura, malgrado il cambiamento di vento, malgrado senta con molta forza che Trump è con Israele e probabilmente si avvicineranno altri anche ad Israele. Però quello che interessa davvero a Netanyahu non è la Gaza, Gaza è sempre tutto come ostaggio, pagano il costo del fatto che in realtà Israele è interessata a prendersi e ad annettersi praticamente più del 60% della Cisgiordania, quello che doveva essere lo Stato di Palestina in realtà non esiste più, perché il 60, più del 60% è considerato ormai terra israeliana da parte degli israeliani. Basta vedere cosa stanno facendo nell'area C, nella Valle del Giordano, dove loro hanno completo dominio sia amministrativo che di sicurezza, dove stanno evacuando a viva forza non soltanto quello che noi stiamo seguendo con molta agonia in Khan al-Ahmar, la scuola di gomme e i beduini di Khan al-Ahmar, ma sta procedendo ad evacuare tutta la Valle del Giordano praticamente, perché se la vogliono annettere. Quindi Netanyahu tiene la cosa fissa su Gaza, però in realtà l'interesse principale per Israele rimane la la Cisgiordania, dove continuano a colonizzare, a prendersi terra, arrestare e bloccare ogni movimento di resistenza popolare non violenta. Trump, non c'è dubbio, questa situazione internazionale aiuta e favorisce Netanyahu, sono tutti alleati netanyahu, da Trump adesso con il Brasile, che è veramente un'onta per quel paese, che invece ha avuto negli anni passati un ruolo molto, molto importante anche nel determinare scelte anche delle Nazioni Unite rispetto anche alla Palestina e Israele. Questa è l'ondata dei nazionalismi più bieti, dove per Netanyahu prima di tutto gli ebrei, per Trump prima di tutto gli americani e noi per Salvini prima di tutto gli italiani. Quindi è un'era veramente difficile per chi ha a cuore la pace, la giustizia e la soluzione dei conflitti, ridando un po' di giustizia ai palestinesi. Però bisogna assolutamente non lasciarsi prendere da questa ondata e continuare a pensare che vale la pena reagire, lottare, come stanno facendo per esempio i comitati popolari della resistenza non violenta e come fanno anche le marce del ritorno a Gaza, lottare e cercare di cambiare però questa narrativa sulla Palestina, cercare di rompere la breccia dei media che veramente sono indecenti. I morti palestinesi non fanno mai notizia. Infatti, a proposito della narrazione, per esempio i recenti conflitti che ci sono stati appunto sulla striscia di Gaza sono stati molto spesso narrati come iniziati dai palestinesi con il lancio dei razzi da parte di Hamas. In realtà l'inizio dei conflitti è stato dettato da un'azione militare intrapresa dalle truppe israeliane domenica sera, e che tra l'altro è stata un'azione militare molto strana, nel senso che è avvenuta poche ore dopo che il premier Netanyahu aveva fatto un discorso, appunto, come dicevamo già prima, difendendo questo trattato, questo accordo che si era raggiunto con l'Egitto e con il Qatar. Questa azione militare non si sa per certo se sia stata o no concordata con il governo, ma fa pensare che in qualche modo il governo di Netanyahu stia perdendo un po' il controllo sulle truppe israeliane. Non credo molto questo, perché forse sta perdendo il controllo su estremisti come Lieberman, però non credo che perda il controllo sull'esercito israeliano, anche se l'esercito israeliano si è fatto in questi anni via via molto più estremista e soprattutto nazionalista religioso, perché sono entrati in grande forza anche i coloni all'interno di questo esercito. Però non Netanyahu rimane quello che ancora dà sicurezza, è la popolazione di Sderot, che insieme a Lieberman e di Sderot, ma anche i coloni che insistono perché Gaza sia spazzata via, perché si facciano di nuovo azioni militari forti, ma credo che non convenga neanche a Netanyahu farlo, seguirli. Anche perché se non vuole fare la pace conviene che si mostri dialogante alla comunità internazionale, che comunque è sempre complice delle politiche israeliane, perché non fa mai pagare a Israele il prezzo della violazione dei diritti umani e dei diritti internazionali. Netanyahu non lo abbiamo per niente conosciuto come un moderato o come qualcuno che rispetta i diritti dei palestinesi, però come dicevi c'è una crescita anche delle posizioni più nazionaliste ed estremiste all'interno delle file israeliane, e in vista di queste prossime elezioni possiamo aspettarci che si estremizzi ancora di più Israele in qualche modo? Più estremista di così è proprio difficile, perché ormai ha raggiunto il massimo con la legge, con le leggi fatte alla Knesset, con le continue violazioni dei diritti umani, con il fatto che anche all'interno di Israele ormai, mentre una volta si poteva dire che non era certamente una democrazia, visto che opprimeva e dominava un popolo con le armi come quello palestinese, ma sicuramente al proprio interno aveva espressioni forti di democrazia. Oggi la festa è finita anche per i dissidenti israeliani, per esempio gruppi come Breaking the Silence, che sono i soldati che si oppongono alle malefatte che fa l'esercito nei confronti dei palestinesi, lo denunciano, vengono trattati come traditori e si inneggia al fatto che devono essere picchiati. Yehuda Shaul, il fondatore di Breaking the Silence, quando è andato a Kiryat Arba, dove Baruch Goldstein aveva da Baruch Goldstein nel 94 e uscì dalla colonia, andò alla moschea di Hebron e uccise 29 coloni. Yehuda Shaul, che appunto proprio prestando servizio militare a Hebron ha deciso che non si poteva più reggere, che questo non era un esercito che difendeva il suo paese ma era un esercito oppressore, viene picchiato e aggredito costantemente. Lo speaker dei coloni della città di Hebron dice pubblicamente che dovrebbe essere impiccato questo signore perché semplicemente semplicemente denuncia come soldato quello che è stato fatto ai palestinesi. Lo stesso vale per organizzazioni per la difesa dei diritti umani come Bezzalem. Agai Eladi, direttore di Bezzalem, che è andato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite parlando, dicendo che la comunità internazionale deve intervenire perché la disparità di forze tra i palestinesi è talmente forte che non si può fare nulla e che comunque Israele non tiene mai conto della legalità internazionale, viene accusato e gli viene addirittura detto: ti toglieremo la cittadinanza israeliana. E lui è ebreo israeliano, quindi la situazione interna è molto, molto complicata, molto complessa in Israele, dove il razzismo non è più praticato nei confronti dei palestinesi soltanto, il razzismo è praticato all'interno anche della popolazione israeliana. Basta pensare a come vengono trattati i falascia, cioè gli ebrei etiopi, oppure come parte dei sefarditi anche era trattata prima, adesso hanno preso un po' di potere. Quindi la situazione è molto complicata quella israeliana, e io continuo a pensare che solo un intervento severo della comunità internazionale possa concludere qualcosa per i palestinesi. Poi qualsiasi cosa facciano è sbagliato: se fanno lotta militare non si fa, sono terroristi; se fanno azioni terroriste, come per esempio farsi saltare i mercati, che sicuramente non è all'interno della legalità internazionale, va male; se fanno le manifestazioni pacifiche e non violenti, vengono arrestati; i ragazzini che tirano la pietra possono essere condannati fino a 12 anni. Quindi i palestinesi sono in realtà impotenti di fronte a questa forza sovrumana di Israele, che usa le armi e la violenza ad ogni piede spinto. E noi lasciamo fare, in realtà la comunità internazionale denuncia ma lascia fare, quindi siamo noi responsabili di questa situazione. Se sofferenza continua in Palestina, se il furto delle terre, dell'acqua, delle risorse viene tolto ai palestinesi, la responsabilità è veramente della comunità internazionale. Insomma, io purtroppo ti devo interrompere, ci sarebbe ancora tanto di cui parlare, ma ti ringrazio molto e ti saluto. No, grazie molto a voi.